che, diciamo, l'aspetto attualmente più drammatico che non viene percepito né dal pubblico americano né da quello europeo, cioè che il luogo al mondo dove il riscaldamento è più si sente già di più è il nord del mondo, quindi proprio la Groenlandia, da dove veniva quella perturbazione. Ecco, nel nord del mondo c'è anche l'Europa, anche noi stessi in Italia abbiamo sofferto di tempeste tropicali molto strane. È vero, secondo te, non si erano mai verificate? Sono dei fatti nuovi, senza precedenti, oppure sono delle cose che succedono? Sicuramente ci sono dei cicli nell'andamento della temperatura media del pianeta, però gli scienziati, usando il carotaggio del ghiaccio artico e antartico, possono andare indietro nel tempo e vedere quando c'è stata una simile concentrazione di anidride carbonica, e tutti gli scienziati dicono che la concentrazione è senza precedenti, e quindi tutto rientra nei modelli che loro disegnano: un aumento delle perturbazioni tropicali, uno scioglimento dei ghiacci che sta succedendo, perché come tu sai, Mario, benissimo, c'è anche una questione geopolitica legata al fatto che la non formazione dei ghiacci al Polo Nord provoca un cambiamento addirittura della geopolitica, perché si apre lo stretto di Bering, si aprono nuove opportunità commerciali al mondo, e purtroppo si apre anche la possibilità di trovare, esplorare il petrolio in quelle remote zone del mondo dove oggi sarebbe impossibile. E dico purtroppo perché la combustione di quel petrolio porterà inevitabilmente altra anidride carbonica nell'atmosfera. Ecco, torniamo a Sandy, Marco. C'è una cosa che mi incuriosisce, perché questo Sandy aveva un raggio di circa 1600 chilometri, cioè un'estensione che avrebbe coperto l'Italia dalla punta meridionale della Sicilia fino alla punta settentrionale al nord delle Alpi. Ecco, noi, diciamo, una perturbazione di queste dimensioni non credo che l'abbiamo mai vista. È possibile che succeda da noi? E invece l'America ha una dimensione continentale che non potrebbe essere ripetuta in una zona, diciamo, più piccola come il Mediterraneo? Qual è la tua impressione? La mia impressione è che un fenomeno come quello di Sandy in Europa è molto difficile, perché appunto Sandy è stato determinato dalla combinazione di fenomeni tropicali e subtropicali che ovviamente ogni anno colpiscono la parte meridionale degli Stati Uniti, sappiamo bene Alabama, Florida e quant'altro. Quindi quello di Sandy è un caso un po' particolare, perché sappiamo bene che questo uragano doveva girare a destra verso l'Atlantico e spegnersi, poi ha trovato questa perturbazione che veniva dal nord e è successo quel che è successo. Però quello che vorrei rimarcare è che ormai sono molti anni che anche in Europa, penso all'ondata di caldo del 2003 che ha provocato migliaia di morti in Europa, o all'estrema siccità che si è verificata in Russia l'anno scorso con incendi e quant'altro, e ricordiamoci poi della siccità, la siccità che ha colpito l'Italia, l'Europa e terribilmente gli Stati Uniti e perfino il Sud America quest'anno, compromettendo in qualche modo il buon andamento del mercato delle commodities del cibo, che secondo gli esperti dovrebbe riflettersi già l'anno prossimo con un aumento dei prezzi. Quindi la verità qual è? Che tutto questo è strutturale, stiamo cominciando a vedere gli effetti che vengono modellati dagli scienziati con le loro statistiche sulle temperature, con i quali dovremo forzatamente nel futuro fare i conti. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. L'uragano Sandy è passato, restano i danni, danni enormi. Per questo stasera è stato organizzato un concerto per raccolta di fondi per le vittime dell'uragano. Concerto Hurricane Sandy, Coming Together. Fra gli artisti che si sono offerti di partecipare, Bruce Springsteen, Bon Jovi e Billy Joel. E proprio di Billy Joel ascoltiamo New York State of Mind. Some folks like to get away, take a holiday from the neighborhood, hop a flight to Miami Beach or to Hollywood. But I'm taking a Greyhound on the Hudson River line. I'm in a New York state of mind. Da New York è tutto, alla fine di una settimana tormentata. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going!